Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati all'ascolto da Mirko Cavallini in studio e di Daici alla parte tecnica. Inizia con oggi un percorso settimanale di ascolto del ciclo di conferenze promosso dall'Associazione Ex Alunni dell'Antonianum in Prato della Valle a Padova. Il corso di cultura 2017, che si è già concluso, si è incentrato sul tema della medicina, arte, scienza e pratica etica. 5 incontri che si sono svolti nell'aula Morgagni del Policlinico Universitario di Padova. La scelta della medicina, quindi della salute, si è motivata con più circostanze, fra di esse il fatto per cui la gran parte del bilancio di ogni regione italiana riguarda proprio il funzionamento del servizio sanitario. Inoltre, per i cristiani, la dimensione del soccorso del malato e del curare sono da sempre importanti, perché Gesù stesso nel Vangelo si presenta spesso come colui che si china a guarire i malati. Il primo intervento sul tema della salute e dei costi della salute, l'allocazione delle risorse, sarà del professor Daniele Franco, che è veneto di nascita, il ragioniere generale dello Stato, introdotto da un ex alunno dell'Antonianum, il professor Pietro Amodio. I giorni della Chiesa. Buonasera, per me è un piacere, un onore presentare Daniele, il dottor Franco, che ha studiato qui a Padova, è un veneto doc da parecchie generazioni, bellunese, si è laureato qui a Padova in scienze politiche. E nell'80 poi è passato, finita laureato, si è poi volato in Inghilterra e ha acquisito un master in scienze economiche presso l'Università di York. Dopodiché ha iniziato il suo lavoro, il suo servizio presso il Centro Studi della Banca d'Italia, che l'ha visto operare fino al 94. A quel punto ha lasciato Roma ed è passato in una sede europea a Bruxelles, e dove è stato consigliere economico della Commissione europea. E dopodiché, dal 97 al 97, è stato direttore della Direzione della Finanza Pubblica della Banca d'Italia. Ma i suoi interessi internazionali sono rimasti vivi, e il riconoscimento del suo ruolo è stato significativo a livello europeo, e dal 2007 ha presieduto il gruppo di lavoro di finanza pubblica del Sistema Europeo delle Banche Centrali. Ha lavorato poi sempre al servizio di ricerca e studi della Banca d'Italia, e dal 2013 è il ragioniere generale dello Stato, quindi colui che deve garantire il bilancio, credo, di previsione e anche, insomma, il controllo di spesa. Ma non è solo un tecnico dell'economia, io lo conosco da anni, dai tempi dell'università, e so dei suoi amplissimi interessi, interessi storici, interessi artistici, interessi umanistici, e quindi non è solo un tecnico, ma un uomo di ampio respiro culturale. Non solo, ma anche, ce lo ricordiamo con padre Cimin, da ragazzo, quando ha lavorato negli universitari costruttori e quindi ha fatto anche del volontariato attivo, lavorando con le mani come muratore. Ecco, e infine è un ex alunno dell'Antonianum qui di Padova. Quindi adesso sentiamo Daniele, il dottor Franco, ragioniere dello Stato, generale dello Stato, che ci fa la sua relazione su questo che è uno dei punti cardine poi della riflessione sulla sanità, perché ovviamente noi spesso ci proniamo come operatori sanitari sul problema di ciò che si può fare, ovviamente ciò che si può fare è condizionato da quelle che sono le disponibilità e l'allocazione di risorse. Ecco. Allora, insomma, grazie per l'invito. Insomma, ovviamente sono molto molto contento di essere qui di nuovo a Padova con molti amici presenti. Io vi proporrò alcune riflessioni sul tema della sanità dal punto di vista di un economista. Poi, come insomma, nel proseguo di questo ciclo di conferenze, altri esperti affronteranno il tema sotto altri profili, probabilmente più interessanti di quelli che può raccontarvi un economista, insomma, che parla di soldi, spese e così via. Devo dire che insomma, nel prepararmi a questa conversazione questa sera, insomma, questa è stata un'occasione per rileggere vari studi in materia di economia sanitaria, e uno è molto colpito dalla complessità del tema della gestione di un sistema sanitario, dove vi sono ovviamente primariamente questioni mediche, però vi sono anche questioni tecnologiche, vi sono questioni istituzionali, come si disegna il sistema, e può essere disegnato in modi diversi. Poi vi sono le questioni finanziarie, e credo la conclusione che ne trae che ciascun esperto che vede la materia dal suo punto di vista deve portarsi dietro una buona dose di umiltà, insomma, e di ascolto verso gli altri esperti di questa materia, perché il tema è veramente molto complesso. Partiamo da riassumere quello che è il modello di sanità italiana. Sta scritto, i nostri fondamenti stanno scritti nell'articolo 32 della Costituzione, che dice, e lo dice dal primo dopoguerra, che la tutela della salute è un diritto fondamentale di tutti i cittadini italiani ed è anche interesse della collettività. Ecco, noi su questa base, molti anni dopo la Costituzione, abbiamo creato il Servizio Sanitario Nazionale, nato negli anni 70, che ha alcuni principi fondamentali. Uno di questi è l'universalità, cioè tutte le prestazioni sanitarie sono offerte a tutta la popolazione, senza distinzioni di condizioni individuali, sociali, economiche, e sono, almeno le prestazioni più importanti, offerte gratuitamente. In questa gestione del sistema sanitario ci sono due attori. Lo Stato definisce quali sono i diritti che ogni cittadino ha in termini di sanità, quali prestazioni deve ricevere, definisce anche quante risorse vengono stanziate per la sanità. E poi vi sono le regioni. Le regioni in realtà sono coloro, i soggetti che attraverso le ASL gestiscono la sanità. Sono loro che poi erogano i servizi. Cosa è successo alla spesa sanitaria pubblica? Ecco, questo grafico parte dal 1960. Allora spendevamo il 3% del prodotto interno lordo. Siamo arrivati anni fa a spendere attorno al 7%, circa all'inizio degli anni 2000. Vedete che è stata una crescita pressoché continua, ma con fasi alterne. Ecco, se voi guardaste un grafico di questo tipo per altri paesi europei, vedreste andamenti molto molto simili. C'è chi è partito con un livello un po' più alto del nostro, ma insomma, grosso modo, questo tipo di andamento lo trovate in quasi tutti i paesi europei. Quello che vedrete strada facendo in questa presentazione è che i problemi che viviamo in Italia sono in realtà problemi molto condivisi con altri paesi europei. L'Italia ha alcune particolarità, ma in larga misura i problemi della sanità italiana sono gli stessi della sanità degli altri paesi europei, più in generale dei paesi avanzati. Questa invece è una fotografia della spesa negli ultimi anni, dal 2001 al 2015. Vedete che dal 2009, l'inizio della lunga recessione cominciata in quell'anno, la spesa è rimasta rispetto al prodotto interno lordo sostanzialmente ferma a circa il 7%. In basso, in rosso, trovate invece la spesa dei privati per la sanità, che è attorno al 2% ormai da vari anni. Quindi, grosso modo, lo Stato, la pubblica amministrazione nel suo complesso spende il 7%, i privati spendono circa il 2%. Scusate per queste citazioni in inglese, ma queste servono a mostrare che questa stabilità della spesa che abbiamo visto noi negli ultimi anni, l'interruzione di quel grafico che era andato da 60 salendo, in realtà si riscontra in quasi tutti i paesi occidentali. La citazione più in basso è sugli Stati Uniti, dove anche negli Stati Uniti, dopo anni di forte aumento della spesa, anche negli Stati Uniti questo processo si è arrestato. Questa è una fotografia della spesa pubblica italiana nel 2015, e vedete i miliardi, vedete poi gli euro pro capite, vedete che le pubbliche amministrazioni spendono nel loro complesso, spendevano nel 2015 13.600 euro, ecco, 1.850 euro erano destinati alla spesa sanitaria, questo per ogni cittadino italiano, questa ovviamente è una media. E vedete sotto come si divideva questa spesa. Vediamo un po' di confrontare l'Italia con altri paesi. L'Italia sta in mezzo, vedete c'è un cerchio verde. Questo grafico vi dice, questa è l'incidenza della spesa sul prodotto interno lordo, la parte blu è la spesa pubblica, la parte rossa è la spesa privata. Vedete che l'Italia non è tra i paesi che spende di più, vedete a destra gli Stati Uniti, che sono in assoluto nel mondo il paese che spende di più per la sanità, oltre 16 punti del prodotto interno lordo, quasi il doppio di quello che spendiamo noi. Vedete che l'Italia spende sia nella componente pubblica sia sommando le due componenti meno di Francia e Germania che stanno attorno oltre il 9%. Meno di noi spendono i paesi dell'Europa centro-orientale, la Turchia per esempio, ma insomma l'Italia quindi ha un livello di spesa sostanzialmente medio. Confrontiamo ora l'Italia con solo due paesi, Francia e Stati Uniti. Vedete in alto l'incidenza della spesa sul prodotto interno lordo, quindi sul valore del reddito che viene prodotto ogni anno in un paese. In genere il prodotto interno lordo viene usato come unità di misura. Vedete che l'Italia spende circa il 9%, come vi dicevo prima, 7 punti pubblico di spesa pubblica, 2 punti di spesa privata. Vedete che spendiamo meno della Francia per entrambe le componenti e molto meno degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, che sono un paese che ha una forte componente di spesa privata, vedete, in realtà hanno una componente pubblica che è più grande della nostra. Vedete in basso, cerchiato, un paio di indicatori sul stato di salute della popolazione. Il primo riguarda la mortalità infantile, e vedete che in Italia è molto più bassa che negli Stati Uniti, ma più bassa anche che in Francia. Vedete poi l'aspettativa di vita, qui sono uomini e donne assieme, e vedete che l'aspettativa di vita in Italia è molto più alta che negli Stati Uniti, ma un po' più alta anche che in Francia. Allora, questo ci dice che in relazione ai servizi sanitari, ovviamente, ma in relazione a molti altri fattori, ovviamente l'aspettativa di vita non dipende soltanto dalle cure, ma dipende anche dalla dieta, dipende da molte altre cose. Comunque, l'Italia ha, sotto il profilo dello stato di salute della popolazione, degli indicatori relativamente molto buoni. Qui vedete gli stessi due indicatori con un numero più ampio di paesi, l'Italia in rosso, e vedete che sulla speranza di vita l'Italia è in assoluto uno dei paesi che ha il risultato migliore. Probabilmente solo il Giappone, Spagna e Svezia hanno risultati migliori del nostro in tutto il mondo. Vedete anche che sulla mortalità infantile pochi paesi hanno una mortalità infantile più bassa dell'Italia. Questo è un altro indicatore, invece, è un indicatore di fronte Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. Questo è un indicatore che va a vedere quanti casi di morte potrebbero essere evitati utilizzando tutte le conoscenze e le tecnologie disponibili. Eurostat arriva a questa stima con un modo abbastanza complicato. Io adesso cito lo studio, ma rinvito i medici a cercare di entrarne nei dettagli, ma se ci limitiamo a prendere il risultato così com'è, questo studio dell'Eurostat ci dice che l'Italia è tra i paesi europei in cui si evitano la sanità, le cure sanitarie, evitano quasi tutti i casi di morte che si potrebbero evitare utilizzando appieno le informazioni sulle cure e sulle tecnologie di cura. Questo è un risultato che ci dice che l'Italia ha essenzialmente un buon sistema sanitario. E qui invece passiamo ad un'altra visione del nostro sistema sanitario, quella basata sul grado di soddisfazione dei cittadini. Qui di nuovo è un'altra indagine Eurostat che confronta il grado di soddisfazione dei cittadini di diversi paesi europei, qui ne ho messi inclusi 7 nel grafico. Le linee rosse riguardano le città fino a 500.000 abitanti, quindi città relativa medio piccole, medie. Le linee blu riguardano le grandi città. Ora, la percentuale rivela il numero di persone che si dicono soddisfatte del proprio sistema sanitario. Vedete che per quanto riguarda le città sotto i 500.000 abitanti, l'82% di coloro che risponde in Italia si dice soddisfatto, ed è una percentuale più bassa che in Francia, in Germania, in Belgio, leggermente più bassa che nel Regno Unito, più alta però che in Portogallo e in Grecia. Quello che è del tutto anomalo è il fatto che solo il 46% degli intervistati che vivono in città sopra i 500.000 abitanti in Italia si dice soddisfatto. Questa è una percentuale, se guardate, bassissima rispetto agli altri paesi. Questo è un indicatore, vi sono anche altri indicatori. Oggi, credo, Eurostat ha diffuso un altro indicatore di nuovo basato su interviste che pone l'Italia al 22esimo posto come grado di soddisfazione, quindi molto indietro. Quindi abbiamo un sistema sanitario che aiuta a farci vivere a lungo, che evita la mortalità infantile, ma che spesso non è apprezzato dai cittadini quando ai cittadini viene chiesto se ne sono soddisfatti. Un altro aspetto critico viene di nuovo rivelato da un'altra indagine Eurostat. Questa è la percentuale di persone appartenenti alla fascia economica più debole della popolazione che per motivi economici non riesce a soddisfare pienamente i propri fabbisogni medici. La linea continua blu riguarda l'Italia, vedete che in Italia, secondo queste indagini, questa percentuale è passata dall'8% del 2008, prima che cominciasse la nostra lunga recessione, al 12-13% attuale. Vedete che la linea italiana si interseca con quella greca, che arriva a una percentuale nel 2014 anche più alta, mentre vedete che Portogallo e Francia stanno sotto con linee più stabili. Questo ci dice che una parte crescente della popolazione, insomma delle fasce più deboli economicamente della popolazione italiana, ha problemi nel soddisfare pienamente i propri fabbisogni sanitari. Un aspetto, e questo è forse l'aspetto più particolare del sistema sanitario italiano, sono le differenziazioni regionali. Un modo di vedere queste differenziazioni è quello di guardare alla cosiddetta griglia dei livelli di assistenza. Sostanzialmente questo esercizio è effettuato dal Ministero della Salute assieme al Ministero dell'Economia. Si raccolgono una serie di indicatori molto analitici sulle cure preventive, per esempio le vaccinazioni, e molti indicatori sulle cure che vengono erogate ai cittadini delle varie regioni. Non so, per esempio c'è il tempo per la gestione delle emergenze nel caso di incidenti o emergenze d'altro tipo. Le regioni in verde sono le regioni che hanno un livello definito adeguato. Poi vi sono le regioni in arancione con un livello intermedio, in parte insoddisfacente, e le regioni caratterizzate dal colore rosso sono quelle dove vi sono forti criticità. Quello che vedete è che negli ultimi anni le regioni con molte criticità, che sono essenzialmente le regioni del centro-sud, le regioni del sud e alcune del centro come Abruzzo-Lazio, hanno visto migliorare i loro indicatori, ma resta, se guardate i punteggi, un netto divario tra il punteggio delle regioni settentrionali e di parte delle regioni del centro come Toscana-Umbria e Marche e il punteggio delle altre regioni italiane. Un altro modo di guardare queste differenze regionali lo trovate qui. In basso, in orizzontale, trovate la spesa in euro pro capite, quindi la spesa pro capite nelle varie regioni. Spesa, vedete, il grosso delle regioni, qui parliamo del 2014, spendeva circa 1.800 euro pro capite. Veneto era tra le regioni che spendeva meno, assieme alle Marche e alla Sicilia. Per arrivare a destra alla spesa più alta, che è quella in alto a destra delle province autonome di Trento e Bolzano della Valle d'Aosta, oltre 2.000 euro. In verticale invece trovate la percentuale di cittadini delle regioni soddisfatta dei servizi ospedalieri. Parliamo solo di servizi ospedalieri. Ecco, questo grafico ci dice che quasi tutte le regioni italiane spendono a statuto ordinario, quelle a statuto speciale spendono in genere di più, ma quelle a statuto ordinario spendono quasi tutte attorno ai 1.800 euro pro capite, ma vedete che a livelli di spesa simili corrispondono livelli di soddisfazione dei servizi medici molto diversi. Vedete i due cerchi, vedete in basso essenzialmente un cerchio che comprende quasi tutte le regioni meridionali, dove il livello di soddisfazione tende a essere limitato, e in alto il livello di soddisfazione delle regioni centro-settentrionali, dalla Toscana alle Marche, al Veneto, alla Lombardia, all'Emilia, al Friuli, che grosso modo spendono lo stesso ammontare in euro pro capite, ma hanno dei cittadini mediamente molto più soddisfatti dei propri servizi, che non vuol dire che siano felicissimi o soddisfattissimi, ma insomma il livello di soddisfazione è molto più alto che nelle altre regioni. Vedete poi le regioni a statuto speciale in alto a destra, che hanno livelli di soddisfazione maggiore, ma livelli di spesa molto maggiore. Ecco, questo ci dice che la performance delle regioni italiane nel gestire la sanità è molto differenziata. E l'Italia è probabilmente il paese europeo che ha al proprio interno delle differenze più accentuate. Un altro modo di vedere la questione della diversa performance dei sistemi sanitari regionali è quello di vedere come si spostano le persone. Uno dei pregi del nostro sistema sanitario nazionale è il fatto che ognuno può decidere di farsi curare ovunque nel paese e quindi può spostarsi. Questi spostamenti danno luogo, sono tracciati, nel senso che la regione che riceve il paziente chiede poi soldi alla regione di residenza del paziente e lo Stato gestisce questa, insomma, flussi, diciamo, di fondi. Vedete qui le regioni a partire a sinistra del Piemonte per arrivare a destra Sicilia e Sardegna. In basso, in rosso, è la mobilità passiva, chi esce. In blu è chi entra. Ora vedete per esempio la Lombardia, Lombardia ha fortissimi flussi in ingresso. La Lombardia cura molte persone che provengono da altre regioni. Dopo la Lombardia vedete che anche l'Emilia-Romagna e poi il Veneto e la Toscana sono le regioni che più ricevono pazienti da altre regioni. Vedete invece che dal Lazio e le regioni meridionali hanno grossi flussi in uscita. Ora, la facoltà di spostarsi e farsi curare altrove ovviamente di per sé è positiva, nel senso che dà più libertà ai cittadini, crea anche concorrenza tra i sistemi sanitari regionali. Ovviamente essere costretti a spostarsi perché si pensa che l'ospedale vicino a casa non dia buoni servizi, beh, questo invece non è positivo. Questo è uno dei punti di debolezza del nostro sistema, in particolare in alcune regioni. Questa è una fotografia della mobilità passiva in Sicilia. La Sicilia negli ultimi anni ha fatto forti sforzi per migliorare i propri servizi e vedete che negli ultimi anni la spesa dei siciliani effettuata in altre regioni è andata calando. Questo mostra che se un sistema regionale migliora la propria performance, i cittadini reagiscono e tendono a spostarsi di meno altrove. La dimensione economica del sistema sanitario. Ovviamente un sistema sanitario è primariamente un sistema che deve curare le persone, deve pensare al benessere delle persone. In tutti i paesi, il nostro compreso, il sistema sanitario però è anche uno dei, come dire, degli aspetti importanti di un sistema produttivo. Avete visto prima quanto gli Stati Uniti spendono per la sanità. Gli Stati Uniti sono un caso limite, ma in quasi tutti i paesi europei circa il 5% dei lavoratori lavora nel sistema sanitario. Quindi il sistema sanitario è anche una parte del nostro apparato produttivo. Qui cito alcuni lavori, scusate di nuovo per le citazioni in inglese, che dicono che la salute è uno dei fattori cruciali per lo sviluppo economico. In basso cito un lavoro della Commissione europea che mette in connessione la qualità della salute, la qualità dei servizi sanitari, col livello di sviluppo di paesi, ma anche con il tasso di crescita di paesi. Quello che emerge da questo studio è che sia per i paesi arretrati, sia per i paesi sviluppati, il fatto che vi siano buoni servizi sanitari, non solo ovviamente un bene per i cittadini in quanto tale per il loro benessere, ma è anche una delle componenti che facilita, uno dei fattori che facilita lo sviluppo economico. Questa è una fotografia di quanti lavoratori italiani operano nel sistema sanitario, ve ne sono circa 500.000 nel settore privato e circa 650.000, lo vedete a destra in alto, nel sistema pubblico. Negli ultimi anni il numero di addetti al sistema sanitario pubblico è sceso circa di 40.000 unità. La discesa si è concentrata nelle regioni che più avevano problemi di disavanzo. Vedete per esempio in basso che il numero degli addetti alla sanità in Veneto, che al contrario è una delle regioni che ha una buona performance, è rimasto sostanzialmente invariato. Vedete 59-60.000 unità, non ci sono state flessioni. Il futuro. Ovviamente fare previsioni su quella che sarà la spesa in futuro è difficile. Insomma, in mille circostanze diverse le previsioni economiche sono state smentite. Ciò non di meno, gli esercizi previsivi sono utili per provare a riflettere su quanto può accadere. La Commissione europea da vari anni organizza degli esercizi previsivi sull'andamento della spesa sanitaria in futuro e per la parte italiana queste previsioni sono effettuate dai miei colleghi alla Ragioneria Generale dello Stato. Qui vedete un grafico che di nuovo parla della spesa per la sanità pubblica rispetto al PIL e vedete che in futuro si prevede un aumento. A seconda delle ipotesi che sono formulate, l'aumento può avere dimensioni diverse. Vedete che in queste previsioni, che essenzialmente riguardano gli aspetti demografici, l'Italia giunge a livelli di spesa pubblica che sono già stati raggiunti da Francia e Germania fin d'ora, quindi non è un quadro drammatico quello che emerge. Questo aumento di spesa è trainato essenzialmente dall'invecchiamento della popolazione, cioè dal fatto che una quota maggiore della popolazione avrà un'età un po' più anziana. Questa è una fotografia di quanto in Italia si spende per la salute pubblica di diverse generazioni. In basso trovate l'età da 0 a 100 anni. Il grafico vi dice quanto le diverse generazioni spendono relativamente l'una all'altra. Uno è la media per l'intera popolazione. Se vedete in alto a sinistra è la curva che riguarda un po' tutta la spesa per l'assistenza. E lì vedete che fino ai 55 anni la spesa pro capite per ogni membro di ciascuna di queste classi d'età è inferiore a 1, quindi questo ovviamente persone più giovani costano meno in termini di spesa sanitaria pubblica. Vedete poi che da una certa età, essenzialmente dalla mia età, la spesa va crescendo enormemente, avendo un picco attorno agli 80 anni dove raggiunge il punto più elevato. Ecco, fotografie di questo tipo per gli altri paesi sono molto simili alla nostra. Praticamente tutti i paesi europei hanno una fotografia di questo tipo. Un altro modo di vedere come la demografia influisce sulla spesa è questo. Noi sappiamo che circa metà della spesa ospedaliera e più in generale della spesa sanitaria si concentra nell'ultimo anno di vita, a prescindere da quando questo ultimo anno di vita sia. Questo grafico rapporta la spesa per coloro che sono deceduti in ciascun anno rispetto ai coetanei che sono sopravvissuti. E vedete che questa spesa può essere, a seconda degli uomini e delle donne di varietà, anche 10-12 volte superiore. Nel senso, questo ovviamente è ovvio, nel senso che chi muore sta male, viene curato e la spesa si concentra in quel momento. Anche questo aspetto viene tenuto in considerazione nel proiettare nel futuro la spesa. Prima vi dicevo che negli ultimi anni in Italia e negli altri paesi la spesa è stata molto contenuta, è rimasta sostanzialmente costante rispetto al prodotto interno lordo. Ora, in molti paesi, sia accademici sia autorità pubbliche, si domandano se questo continuerà, quanto questo continuerà, o quanto questo non sia frutto di una compressione temporanea della spesa. Vi ricordate prima che in Italia, ma in quasi tutti gli altri paesi, dal 1960 per 40 anni la spesa è aumentata più rapidamente del prodotto interno lordo. Questo è uno studio americano che dice sì, abbiamo avuto un rallentamento, ma per molti motivi ci aspettiamo che la spesa torni a crescere in futuro più del prodotto interno lordo. Questo essenzialmente perché da un lato vi è una domanda crescente di servizi sanitari, dall'altra vi è un'offerta di tecnologie mediche più efficaci ma anche più costose. Quindi quello che problema con cui tutti i paesi si confrontano è quello di assicurare buoni servizi a tutta la popolazione in presenza di una domanda di servizi che è crescente, nel senso che la mia generazione va dal medico, usa, fa analisi, ricorre a test molto più della generazione prima, dei miei genitori, e i miei genitori a loro volta sono andati, hanno fatto ricorso a servizi medici molto più dei miei nonni. Quindi di generazione in generazione noi ci muoviamo in un mondo in cui via via chiediamo di più in termini di servizi sanitari. Dall'altro abbiamo un'offerta di servizi che per fortuna si evolve e ci offre nuovi servizi. Qui cito un lavoro dell'OCSE, vi è stata 2 settimane fa l'OCSE a Parigi, l'OCSE è l'Organizzazione dei Paesi Occidentali, una conferenza di ministri della salute. Una delle relazioni era sugli sprechi intesi in senso lato nel sistema sanitario. Qui cito questo lavoro che fa riferimento a molti paesi e che mostra che un discreto numero delle prescrizioni mediche può essere non necessario, che vi sono ricoveri inappropriati, che vi sono elevate spese amministrative e così via. Questo è un problema che si riscontra un po' in tutti i paesi. Ovviamente un conto è dirlo, rilevarlo, un conto poi è riuscire ad affrontare il problema, che ha mille sfaccettature. Uno dei punti di consenso è quello di utilizzare per quanto più è possibile i dati disponibili sul sistema sanitario. Noi adesso abbiamo un'infinità di dati sui risultati ottenuti dalle varie strutture sanitarie. Ecco, il punto è cercare di usare questi dati nel modo migliore possibile. Adesso vi mostro alcuni dati, alcuni lucidi, sul programma nazionale ESITI, che è un'iniziativa sviluppata dal Ministero della Salute in cooperazione con le regioni italiane, che da alcuni anni sta sistematicamente raccogliendo dati su 165 indicatori di performance sanitaria a livello del singolo ospedale. Ecco, questa raccolta di dati è importante che sia poi utilizzata per migliorare ovunque sia possibile la gestione del sistema. Questa è una fotografia sulla qualità delle strutture ospedaliere, di nuovo basata su questi indicatori. In rosso vi sono le regioni più problematiche, dove gli indicatori hanno valori peggiori. Di nuovo vedete che questi si concentrano nelle regioni del sud. Questo dato invece mette assieme in orizzontale il volume di interventi di chirurgia del cancro allo stomaco, in verticale la mortalità dopo 30 giorni dall'intervento. Sì, io non sono un medico né un esperto, ma quello che appare da questo grafico, ma ce ne sono anche altri per altri tipi di intervento, è che essenzialmente le strutture dove gli interventi sono molto pochi sono quelle dove la mortalità è più alta, le strutture dove gli interventi sono maggiori, più numerosi, ha una mortalità più bassa. Questo lo si riscontra anche per altre tipologie di interventi rilevati dal programma nazionale ESIDI, lo si riscontra anche in altri paesi. Questo suggerisce che vi sono forti economie di scala in questo tipo di interventi, quindi conviene avere strutture tendenzialmente più grandi piuttosto che strutture più piccole. Un altro degli indicatori riguarda quante fratture del collo del femore vengono sono oggetto di un intervento dopo, entro 2 giorni. E qui di nuovo vedete che vi è una fortissima disparità regionale, di nuovo con le regioni del centro-nord con una performance migliore, le regioni del meridione con una performance mediamente peggiore. Ecco, questi dati sono disponibili anche a livello del singolo ospedale, quindi questo dà un'enorme potenzialità anche per una qualsiasi programmazione sanitaria regionale per cercare di migliorare questa performance. Un'altra fotografia della realtà italiana è la diffusione riguarda la diffusione di parti cesarei. Secondo l'Organizzazione Mondiale per la Sanità sarebbe ottimale avere parti cesarei per una percentuale dell'ordine del 15%. Vedete che in alcune regioni italiane, in particolare al centro-nord, ci si avvicina a questa percentuale. In molte altre province e regioni italiane la percentuale è molto più alta, in alcuni casi si arriva anche attorno al 50%. Questo vi dice quanto differenziato sia il nostro paese sotto il profilo dell'approccio alle cure sanitarie. Se un parto cesareo costa più di un parto normale, questo vi dice che potrebbero esserci dei margini per migliorare la spesa senza per questo, ridurre la spesa senza per questo avere una performance peggiore in termini di cure. Un altro sviluppo, e questo riguarda la cosiddetta tessera sanitaria. Ognuno di noi ha una tessera sanitaria da più di 10 anni. Questa è un'iniziativa del Ministero dell'Economia assieme al Ministero della Salute. Ecco, la cosa importante è che la tessera sanitaria ci consente di tracciare i profili di consumo sanitario di tutti i cittadini italiani. Tutti i medici convenzionati e i dipendenti del sistema e tutte le strutture sanitarie pubbliche e private sono collegate al sistema della tessera sanitaria. Ecco, la cosa importante per due profili, per due sviluppi. Da un lato il sistema tessera sanitaria si sta collegando all'anagrafe nazionale degli assistiti, cioè l'idea che un codice fiscale ha una tessera sanitaria che è collegata al codice fiscale. Accanto vi è l'indicazione di quella che è la ASL di iscrizione e questo sistema si sta collegando alla nuova anagrafe nazionale delle persone residenti del Ministero dell'Interno. Finora noi abbiamo avuto 8.000 anagrafi comunali indipendenti con a volte problemi di duplicazione. Stiamo muovendo verso una situazione in cui avremo un'unica anagrafe nazionale e quindi a questa anagrafe nazionale si collegherà la tessera sanitaria, il codice fiscale e l'anagrafe degli assistiti. L'altro sviluppo riguarda la creazione del fascicolo sanitario elettronico, cioè il fatto di poter risalire a tutte le informazioni sanitarie di ciascun assistito, informazioni che adesso sono distribuite nelle varie strutture ospedaliere in tutto il paese. Questo vi è ovviamente una questione di privacy che va tutelata, ma l'idea è che se il paziente, il cittadino è favorevole e dà il suo consenso, un pronto soccorso potrebbe risalire a tutte le cartelle cliniche che l'infortunato ha praticamente in tempo reale. Questo anche sia beneficiandolo sotto il profilo della cura, ma anche sotto evitando di ripetere esami inutili. Ultima parte, se siete ancora disponibili qualche minuto ad ascoltarmi, non so se sono... riguarda le innovazioni in campo farmaceutico, adesso qui ovviamente i medici presenti ne sanno molto più di me, io vedo insomma, questo aspetto sotto il profilo, insomma, di come un economista lo può vedere, insomma. Quello che colpisce è negli ultimi anni l'accentuarsi delle innovazioni per quanto riguarda i nuovi farmaci e colpisce il fatto che si va in molti casi verso farmaci più costosi, anche molto più costosi. Questa è una fotografia presa che riguarda gli Stati Uniti, riguarda i prodotti oncologici, e sono i prodotti per i quali si chiede l'autorizzazione alla circolazione, all'utilizzo negli Stati Uniti. Quello che emerge è che vi è un forte aumento del prezzo, del costo del prodotto per ogni anno di vita guadagnata. Sostanzialmente nel 1995 un anno di vita guadagnata per gli assistiti costava $50,000-$60,000, nel 2013 il costo è sui $220,000-$230,000, l'aumento molto superiore all'aumento dell'inflazione. Ecco, fotografie di questo tipo si possono ricavare per paesi diversi e anche per altre tipologie di farmaci. L'industria farmaceutica è un settore dinamico. Qui cito un studio della Commissione europea. Qui va ricordato che l'Italia sta tornando a essere uno dei grossi produttori di farmaci. Come sapete, noi abbiamo avuto negli ultimi anni una crisi del nostro settore manifatturiero, abbiamo perso quasi un quarto della nostra produzione industriale rispetto al 2007-2008. Ecco, l'industria farmaceutica è probabilmente il settore che va meglio in Italia in questi ultimi anni, come vendite, come produzione, come occupazione, come ricerca. Italia sta tornando adesso uno dei grossi poli della ricerca farmaceutica europea. E questo è importante perché l'industria farmaceutica in tutto il mondo è uno dei settori più innovativi. Ecco, come questo rapporto europeo però dice nella parte bassa della citazione, qui il punto è trovare un equilibrio tra le nuove terapie che sono più costose, e quindi insomma è legittimo che i pazienti cittadini le chiedano, se io so che c'è una cura per un malanno che riguarda me stesso, la mia famiglia, io come cittadino ovviamente la chiedo fortemente. Dall'altro lato, molte di queste cure sono molto costose e quindi questo solleva un problema che è economico, finanziario, ma anche etico, cioè fino a chi decide, fino a che punto si deve e si può arrivare, avendo a mente che ogni euro speso su un cittadino è un euro in meno che è disponibile per qualcun altro. Ecco, l'ultimo lucido riguarda sempre sul tema un caso molto particolare. Di nuovo mi scuso che non sono riuscito a tradurlo in italiano. È il caso dei farmaci per l'epatite C. Questo è un caso famoso. Il Senato americano ha creato una commissione d'inchiesta nel 2015 e le citazioni che trovate qui sono estratti dei risultati di questa commissione d'inchiesta, che sono, questo è un caso limite, però un caso limite molto significativo. Il Senato nella sua inchiesta va dalla Gilead, questa azienda che aveva comprato un'altra azienda che aveva questi brevetti, vede i documenti della Gilead e in questi documenti dicono, lo vedete in alto, che nel fissare i prezzi la Gilead si era posto unicamente il problema di massimizzare il proprio reddito, il proprio profitto, consapevole che prezzi più bassi avrebbero consentito a più pazienti di essere trattati, ma ha fissato il prezzo come più poteva consentire di massimizzare il proprio profitto. Poi il Senato, il secondo punto, dice che nel fissare i prezzi non si è tenuto conto di quanto si era investito prima nella ricerca e nello sviluppo, perché i prezzi erano un multiplo di quanto sarebbe stato necessario per coprire i costi della ricerca. Il Senato americano rileva che il prezzo iniziale di 84.000 euro per questo è un vaccino che risolve il problema dell'epatite C definitivamente per una persona. Questo prezzo di 84.000 euro ha molto ridotto il numero degli americani che potevano essere trattati, perché sia le assicurazioni private sia le assicurazioni pubbliche americane hanno reagito razionando, limitando l'accesso, e che comunque il costo per il sistema sanitario americano era stato enorme. Si cita qui, nei primi 9 mesi 2015 la Gilead ha venduto prodotti solo negli Stati Uniti per 10 miliardi di dollari, quindi una cifra. E il Senato americano poi, lo vedete in basso, solleva alcuni quesiti, infatti il rapporto finisce con dei quesiti che vengono posti, che sono quesiti che in realtà hanno una valenza molto generale. Il primo punto è quale deve essere il rapporto tra quanto si paga per il costo di un prodotto e il beneficio che viene ottenuto. Cioè, quanto siamo disposti, quanto dovremmo pagare un anno di vita in più? Adesso un po' semplifico. Quale prezzo deve avere questo? E questo è un problema generale che vale per gli Stati Uniti, vale un po' per tutti i paesi. Poi, come assicurare la trasparenza nel modo in cui i prezzi vengono fissati dall'industria farmaceutica, ma nello stesso tempo noi abbiamo bisogno che l'industria farmaceutica investa. Perché soltanto se pensa di guadagnare investe, è proprio il fatto di investire nella ricerca che consente di avere poi prodotti nuovi. Se questo fosse interrotto non avremmo più il problema, ma non avremmo nemmeno i prodotti nuovi. Ultimo punto è come garantire prodotti di questo tipo anche alle fasce meno abbienti della popolazione. Il caso americano è un caso in cui Il ruolo della insomma, sanità privata, dell'assicurazione è molto ampio, più che da noi, però questo problema in realtà si pone in termini diversi anche in un sistema come il nostro che è sostanzialmente prevalentemente pubblico. Ecco, questi quesiti credo siano quesiti di valenza molto ampia, non solo per gli Stati Uniti, e che forse meriterebbero un'attenzione anche non solo da parte degli economisti ovviamente, ma anche solo da parte ovviamente dei medici innanzitutto, ma anche forse di altre categorie, sono problemi etici in fondo. Conclusioni. Come avete visto, i problemi della sanità italiana sono in larga misura quelli di altri paesi. Una caratteristica invece particolare dell'Italia è il forte divario regionale. In Italia convivono performance sanitarie molto differenziate e sono quelle che inducono cittadini di una parte di alcune parti del paese a spostarsi. Ovviamente, insomma, se noi potessimo portare tutte le strutture sanitarie italiane alla performance delle regioni migliori, tra cui c'è questa regione, questo sarebbe un enorme progresso per la media della performance del sistema sanitario italiano. Il settore sanitario in Italia e negli altri paesi vive un periodo di intenso cambiamento tecnologico. Questo ovviamente apre nuove possibilità di cura, però crea problemi di spesa pubblica o pubblica e privata. Di qui ovviamente l'esigenza di fare di tutto per recuperare ogni margine per migliorare l'efficacia, l'efficienza del sistema. Ecco, un altro aspetto è che in una situazione in cui la tecnologia medica si evolve rapidamente, pensate al caso di un farmaco che evita l'ospedalizzazione. A questo punto occorre essere pronti ad avere un utilizzo delle risorse nel sistema sanitario più flessibile. Uno può domandarsi come debbano essere gli ospedali in futuro, se devono essere come sono adesso o strutture che magari possano adattarsi più rapidamente a eventuali cambiamenti delle tecnologie. Pensate, non so, alle durate delle degenze. In passato le degenze tendevano a essere lunghe, adesso si sono molto ridotte e questo ha già comportato un modo diverso di organizzare gli ospedali. Può darsi che questo processo prosegua o si accentui. Il fatto di avere un sistema come quello italiano decentrato, in cui ogni regione ha dei margini di autonomia, da un lato dà flessibilità, consente di sperimentare. Il Veneto ha un sistema sanitario un po' diverso dalla Lombardia, un po' diverso dalla Toscana, un po' diverso dall'Emilia. Hanno tutte queste regioni una buona performance, ma si sono organizzate un po' diversamente. Il fatto di testare soluzioni diverse è di per sé un bene, perché questo fa sì che uno vede gli altri come quali progressi ottengono. Nello stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che alcuni problemi non possono che essere risolti a livello nazionale o a livello europeo. Pensate alla questione dei farmaci, dei prezzi dei farmaci. Se ogni regione acquistasse i farmaci da sola, trattando con le grosse multinazionali, forse otterrebbe prezzi più alti che se gli stessi farmaci siano acquistati a livello nazionale o addirittura europeo. Un punto su cui credo abbia un ampio consenso è sull'utilizzare tutti i possibili indicatori di efficienza ed efficacia dei servizi. Avete visto prima alcuni esempi che mostrano che i margini di miglioramento sono enormi. Ultimo punto, il settore sanitario è un settore, uno dei principali settori produttivi del nostro paese, quindi in questo sforzo che dobbiamo effettuare per far riprendere l'economia del nostro paese, ovviamente il settore sanitario non può che esserne parte. Ultimo lucido, cito questa conclusione di questa conferenza che si è tenuta poco fa a Parigi. le quali richiamano conferenza con una forte presenza di economisti, e quindi insomma è un richiamo che gli economisti fanno a se stessi, che richiamare il fatto che al centro del sistema sanitario c'è il paziente, c'è la persona, e che quindi sì, uno deve valutare tutti gli aspetti economici, che sono ovviamente importanti, ma insomma quello che conta è che l'organizzazione del sistema sanitario sia coerente con ciò che i cittadini vogliono, con ciò che i pazienti vogliono. Insomma, questo è sempre da come dire, è una cosa ovvia, insomma, ma forse uno debba tenerla sempre a mente. Grazie. Spot. Il Veneto nei giornali. Da lunedì a venerdì alle 8:15 le notizie in prima pagina sui quotidiani regionali. Il Veneto nei giornali. Con gli aggiornamenti sul meteo e la viabilità del Veneto. I giorni della Chiesa. L'intervento era del professor Daniele Franco, ragioniere generale dello Stato, intervenuto al primo degli incontri promossi dall'Associazione Ex Alunni dell'Antonianum, il corso di cultura 2017 incentrato sul tema della medicina. Il professor Franco ha parlato in particolare del tema che gli compete, quindi l'allocazione, lo smistamento delle risorse economiche, dato che la sanità è la voce principale in ogni bilancio di regione italiana. Molto più della metà del bilancio, appunto, viene utilizzato per la voce sanità e spese sanitarie. Ringraziamo anche l'intera Associazione Ex Alunni dell'Antonianum, l'assistente padre Mario Ciman, Telechiara per averci messo a disposizione la registrazione dell'intervento. Nelle prossime settimane anche gli interventi successivi, quello di Carlo Casalone sul tema etica del nascere e del morire, di Alessandro Nanni Costa sui trapianti d'organo, di Maria Teresa Russo sulla salute perfetta, promessa utopia, per chiudere con Gianfranco Gensini dalla medicina personalizzata alla medicina integrata. Grazie a Didaici alla parte tecnica, a voi tutti per l'ascolto e ancora buon proseguimento con Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.